Ad alta voce, Rolando Ravello legge Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, traduzione di Tommaso Pincio. Raccontai a mia cugina Daisy di come mi fossi fermato a Chicago per una giornata, venendo nell'est, e della dozzina di persone che mi avevano chiesto di trasmetterle il loro affetto. «Vi manco!» esclamò lei estasiata. «L'intera città è inconsolabile. Tutte le auto hanno la ruota posteriore sinistra, dipinta di nero in segno di lutto, e un pianto continuo si propaga di notte nel North Shore». «Che meraviglia! Torniamo a Chicago, Tom. Domani!» Quindi, come niente fosse, aggiunse: «Devi vedere la bambina». «Volentieri». «Sta dormendo, ha 3 anni. Non l'hai mai vista?» «Mai». «Beh, devi proprio vederla, è...» Tom Buchanan, che sino a quel momento si era aggirato inquieto per la sala, si fermò e mi posò la mano sulla spalla. «Che combini, Nick?» «Lavoro in borsa». «Dove?» glielo dissi. «Mai sentiti nominare», commentò lui deciso. La cosa mi irritò. «Ne sentirai parlare presto, tagliai corto, se resterai nell'est». «Oh, ci resterò nell'est, non temere», disse lanciando prima un'occhiata a Daisy e poi un'altra a me, come fosse allerta per qualcos'altro. «Sarebbe davvero idioti andare a vivere altrove». A questo punto la signorina Baker disse: «Assolutamente», con tale subitanità che sobbalzai. Era la prima parola uscita dalla sua bocca da quando ero entrato nella stanza. Evidentemente lei ne rimase sorpresa quanto me, perché sbadigliò e con una serie di movimenti sciolti e veloci si levò in piedi. «Sono tutta indolenzita», si lamentò. «Sono stata su quel sofà, non ricordo più quanto». «Non guardare me», ribatté Daisy. «È tutto il pomeriggio che cerco di portarti a New York». «No, grazie», disse la signorina Baker ai 4 cocktail appena giunti dalla dispensa. «Sono in piena preparazione». L'ospite la guardò incredulo. «Non mi dire...» Scolò il proprio drink come cercasse di bere una goccia dal fondo di un bicchiere. «Come tu riesca a combinare qualcosa va al di là della mia comprensione». Fissai la signorina Baker chiedendomi cosa potesse avere combinato. Mi piaceva fissarla. Era una ragazza slanciata, dal seno piccolo, con un portamento eretto che lei accentuava tirando le spalle indietro come un cadetto. Gli occhi grigi e tirati dal sole ricambiarono il mio sguardo con reciproca e compita curiosità da un viso esangue, affascinante, scontento. Mi sovvenne a quel punto che l'avevo già vista da qualche parte, quantomeno in foto. «Voi vivete a West Egg», rimarcò sdegnosa. «Conosco qualcuno laggiù». «Io non conosco una sola...» «Beh, non potete non conoscere Gatsby». «Gatsby?» domandò Daisy. «Quale Gatsby?» Prima che potessi replicare che era il mio vicino, fu annunciata la cena. Infilando teso e imperioso il suo braccio sotto il mio, Tom Buchanan mi trascinò via dalla stanza come stesse muovendo un pezzo su una scacchiera. Esili, languide, le mani leggermente posate sui fianchi, le 2 giovani donne ci precedettero nella veranda rotata, dove su un tavolo 4 candele tremolavano al vento che era andato calando. «Perché le candele?» obiettò Daisy, accigliandosi. Le spense con le dita. «Tra 2 settimane sarà il giorno più lungo dell'anno». Ci guardò tutti radiosa. «Non vi succede mai di aspettare tutto l'anno il giorno più lungo per poi perdervelo?» «Io aspetto sempre il giorno più lungo dell'anno. E ogni volta me lo perdo». «Dovremmo organizzare qualcosa per l'occasione», sbadigliò la signorina Baker, sedendosi a tavola come stesse mettendosi a letto. «Giustissimo», disse Daisy. «Cosa organizziamo?» Si voltò verso di me disorientata. «Cosa si fa di solito?» Prima che le potessi dare una risposta, i suoi occhi si fissarono con un'espressione preoccupata sul dito mignolo. «Guardate», si lamentò, «mi sono fatta male». Guardammo tutti. La nocca era nera e blu. «Sei stato tu, Tom», disse in tono accusatorio. «So bene che non l'hai fatto apposta, ma l'hai fatto. Questo è quel che si ottiene sposando un bruto, un mastodontico esemplare di energumeno che...» «Detesto quella parola, energumeno», protestò Tom contrariato, «anche detta per scherzo». «Energumeno», insiste Daisy. Capitava che lei e la signorina Baker prendessero la parola all'improvviso. con un garbo e una leggerezza scherzosa che non si traduceva mai in una vera e propria chiacchierata, bensì in un qualcosa di gelido come i loro abiti bianchi e i loro sguardi distaccati, alieni da qualunque desiderio. Erano lì e tolleravano la presenza di Tom e mia, limitandosi a un cortese quanto misurato sforzo di intrattenere o essere intrattenute. Sapevano che a breve quella cena sarebbe finita e che un poco più tardi anche la serata sarebbe finita, per poi essere accantonata con indifferenza. L'esatto opposto dell'Ovest, dove una serata precipitava di fase in fase verso la conclusione nel continuo tradimento delle aspettative, oppure nel puro e nervoso timore del momento presente. «Mi fai sentire un barbaro, Daisy», confessai al mio secondo bicchiere di un claretto più che passabile, malgrado sapesse un po' di tappo. «Non potremmo parlare di altro, che so, del raccolto di quest'anno». Non alludevo a niente di particolare con questo mio appunto, ma suscitò una reazione inaspettata. «La civiltà è allo sfascio», proruppe Tom con veemenza. «Sono diventato un pessimista terribile. Hai letto L'ascesa degli imperi di colore di un certo Goddard?» «No, perché?» replicai piuttosto sorpreso dal tono. «Beh, è un bel libro e dovrebbero leggerlo tutti. L'idea è che se non stiamo attenti, la razza bianca verrà completamente sommersa, è roba dimostrata scientificamente». «Tom sta diventando davvero profondo», disse Daisy, con un'espressione di istintiva tristezza. «Legge libri seri con un sacco di parole lunghe dentro. Qual era quella parola che...» «Insomma, si tratta di libri scientifici», ribadì lui, lanciandole un'occhiata spazientita. «Questo tipo ha studiato l'intera faccenda. Sta a noi, che siamo la razza dominante, sorvegliare, altrimenti le altre razze prenderanno il controllo». «Dobbiamo sterminarle», sussurrò Daisy, ammiccando con ferocia in direzione del sole ardente. «Dovreste vivere in California», intervenne la signorina Baker, ma venne interrotta da Tom, che spostò pesantemente la sedia. «L'idea è che noi siamo nordici. Lo sono io, e lo sei tu, e tu e...» Dopo un'esitazione infinitesimale, incluse Daisy con un minimo cenno del capo e lei mi fece nuovamente l'occhiolino. «E siamo stati noi a porre le basi della civiltà, cioè di scienza e arte e tutto il resto, capite?» C'era qualcosa di patetico nella sua concentrazione, come se il paternalismo più acuto di un tempo non gli bastasse più. Quando, pressoché nello stesso istante, il telefono squillò da dentro casa e il maggiordomo lasciò la veranda, Daisy colse al volo la momentanea interruzione e si protese verso di me. «Ora ti svelo un segreto di famiglia», bisbigliò infervorata. «Riguarda il naso del maggiordomo. Vuoi sapere la verità sul naso del maggiordomo?» «È giusto appunto la ragione per cui sono venuto stasera». «Beh, non è sempre stato un maggiordomo. Prima lucidava l'argenteria per conto di certe persone di New York che davano cene di gala per 200 invitati. Non faceva che lustrare dal mattino alla sera, finché non ha cominciato ad avere problemi col naso. Le cose andarono di male in peggio», asserì la signorina Baker. «Già, le cose andarono di male in peggio, finché dovette lasciare il posto». Per un momento gli ultimi scampoli di sole lambirono con romantica premura il volto splendente di Daisy. Mentre ascoltavo la sua voce, mi attraeva a sé, togliendomi il respiro. Quindi il bagliore scemò. Ogni luce si distaccò da lei con il rammarico prolungato dei bambini che lasciano una bella strada al tramonto. Maggiordomo riapparve e mormorò qualcosa nell'orecchio di Tom, che si accigliò, tirò indietro la sedia e senza proferire parola entrò in casa. Quasi che la sua assenza avesse risvegliato in lei qualcosa, Daisy si sporse di nuovo in avanti, la voce appassionata e giuliva. «Adoro vederti alla mia tavola, Nick. Mi rammenti una rosa, sì, non è vero?» Si voltò verso la signorina Baker per avere conferma. «Non è una rosa?» «Era falso. Nulla assomiglia meno di me ad una rosa. Stava solo improvvisando, ma emanava un calore così avvolgente da far pensare che il suo cuore stesse cercando di uscire dal petto per venirti incontro, nascosto in una di quelle parole eccitanti e mozzafiato. Quindi, d'improvviso, gettò il tovagliolo sulla tavola, si scusò ed entrò in casa. Io e la signorina Baker ci scambiammo un'occhiata veloce e volutamente priva di significato. Ero sul punto di parlare quando lei si raddrizzò sulla sedia, attenta, e fece «shh» in tono di ammonimento. Dalla stanza accanto proveniva un mormorio sommesso e infervorato e la signorina si piegò in avanti, senza ritegno, per cercare di udire. Il mormorio tremolò fino a divenire quasi incomprensibile, s'affievolì, riprese vigore e poi d'un tratto cessò. «Questo signor Gatsby di cui parlavate è il mio vicino», dissi. «State zitto, voglio sentire che accade». «Sta accadendo qualcosa», mi informai con innocenza. «Volete dire che non lo sapete?» disse la signorina Baker, sinceramente sorpresa. «Credevo che lo sapessero tutti». «E io no». «Beh», disse esitando, «insomma, pare che Tom abbia una donna a New York». «Una donna?» feci eco io assente. La signorina Baker annuì. «Quantomeno la decenza di non telefonargli all'ora di cena, vi pare?» Quasi un attimo prima che afferrassi il senso di quelle parole giunsero il frullio di un vestito e uno scricchiolare di stivali in pelle, seguiti da Tom e Daisy che si rimettevano a tavola. «Scusate, era una cosa importante», esclamò Daisy con allegria forzata. Si mise a sedere. Lanciò un'occhiata indagatrice alla signorina Baker, poi fece altrettanto con me e seguitò. «Mi sono soffermata a guardare fuori per un attimo ed è molto romantico, fuori. C'è un uccello sul prato. Sta cinguettando». Anche la sua voce pareva canticchiare. «Non è romantico, Tom?» «Molto romantico», disse lui. E quindi, con aria abbattuta, si rivolse a me. «Se c'è abbastanza luce, dopo cena voglio mostrarti le scuderie». Risuonò ancora, inaspettato, dall'interno, e mentre Daisy scuoteva il capo con fermezza in direzione di Tom, l'argomento scuderie, qualunque argomento in effetti, svanì nell'aria. Degli sparsi frammenti degli ultimi 5 minuti a tavola ricordo le candele di nuovo accese, senza alcuna ragione, e la voglia netta da parte mia di fissare ognuno dei commensali dritto negli occhi e al tempo stesso di evitare qualunque sguardo. Non ero in grado di dire cosa stessero pensando Daisy e Tom, ma dubito che la signorina Baker, malgrado il fiero scetticismo che pareva ostentare, fosse capace di cancellare dalla mente l'insistenza stridula e metallica di questo quinto ospite. Col dovuto temperamento, la situazione avrebbe potuto sembrare intrigante, ma il mio impulso immediato fu quello di chiamare subito la polizia. Va da sé che i cavalli non vennero più menzionati. Tom e la signorina Baker, divisi da un paio di metri di crepuscolo, si avviarono a passi lenti verso la biblioteca, come si recassero alla veglia di un cadavere in tutto e per tutto reale, mentre io seguii Daisy lungo una successione di verande comunicanti, cercando di mostrarmi piacevolmente interessato e un tantino sordo. Sedemmo fianco a fianco su un divano di vimini, nella profonda penombra della veranda principale. Daisy si prese il volto tra le mani come per saggiarne i lineamenti delicati, mentre i suoi occhi si orientavano a poco nell'oscurità vellutata. Mi resi conto che era in preda a violente emozioni, così cominciai a chiederle della bambina, pensando potesse in qualche modo calmarla. «Non ci conosciamo molto bene, Nick», disse d'improvviso. «Anche se siamo cugini, non sei venuto al mio matrimonio. Non ero ancora tornato dalla guerra». «Questo è vero», esitò. «Beh, ho passato un periodo davvero brutto, Nick, e guardo tutto con molto cinismo». Evidentemente aveva le sue ragioni. Restai in attesa, ma non aggiunse altro, e trascorso qualche istante, superata l'incertezza, tornai sull'argomento figlia. «Immagino che parli, e che mangi, e tutto il resto». «Oh, sì», mi osservò con occhi assenti. «Ascolta, Nick, lascia che ti racconti cosa dissi quando è nata. Ti piacerebbe sentirlo?» «Molto». «Ti chiarirà cosa sono diventati i miei sentimenti riguardo le cose». «Allora, lei aveva meno di un'ora, e Dio solo sa dove fosse Tom. Mi svegliai dall'anestesia con un senso di totale abbandono e chiesi subito all'infermiera se fosse maschio o femmina. Lei mi disse che era una bambina e così voltai la testa dall'altra parte e piansi. Perfetto. Sono felice che sia femmina e spero che sia una sciocca, che è la migliore cosa che una ragazza possa essere a questo mondo. Una bella sciocchina. Vedi, io credo che sia tutto orribile. Tutto. Proseguì convinta di quel che diceva. È quello che pensano tutti, la gente più evoluta. E io lo so per esperienza. Sono stata dappertutto, e ho visto tutto, e ho fatto tutto. Si guardò attorno con occhi che brillavano di spavalderia, in un modo per nulla dissimile da quello di Tom, e si mise a ridere con sprezzo eccitato. Sofisticata! Dio, se sono sofisticata! Nell'istante in cui la voce si interruppe, cessando di esigere la mia attenzione, la mia fede, avvertì la sostanziale insincerità di quanto aveva detto. La cosa mi turbò. Era come se l'intera serata non fosse stata che una specie di trucco per estorcermi un contributo in emozione. Aspettai, e difatti nel volgere di un istante mi guardò con un ghigno dispotico sul viso incantevole, quasi a rivendicare la propria appartenenza a un'insigne società segreta di cui erano membri sia lei che Tom. I'm a sentimental sap, that's all. What's the use of trying not to fall? I have no will, you made your kill, 'cause you took advantage of me. I'm just like an apple on a bough, and you're going to shake me down somehow. But what's the use? You cooked my goose, 'cause you took advantage of me. I'm so hot and bothered that I don't know my elbow from my ear. I suffer something awful each time you go. It's much worse when you're near. Here am I with all my bridges burned, just a babe in arms where you're concerned. So lock the doors and call me yours, 'cause you took advantage of me. Tell me, what's the use? You've cooked my goose, 'cause you took advantage of me. Say, I'm so hot and bothered that I don't know my elbow from my ear. I suffer something awful each time you go. It's much worse when you're near. Here am I, with all my bridges burned, just a babe in arms where you're concerned. So lock the doors and call me yours. You took advantage of poor little.